24. Storia e musica negli anni 60 e 70. Bentrovati su Mix 24 Estate. Stiamo raccontando gli anni 60 con la storia e la musica con Franco Schipani e Marina Milone. Oggi ci occupiamo del 1969. Allora Franco, come iniziamo il racconto di quest'anno? Iniziamo con il brano italiano più venduto del 1969. Mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io vidi lei entrare nella mia... E ancora Adriano Celentano, buongiorno Franco. Buongiorno Marina. Allora, dopo il fatidico 68 che abbiamo raccontato, nel 1969 possiamo dire che ci siamo dati una calmatina? Beh, una calmatina non direi proprio, perché guarda, l'anno prima, proprio alla Scala di Milano, in occasione dell'apertura, come al solito, davanti al teatro, grande manifestazione del movimento studentesco. E si manifesta anche a Sanremo. E si manifesta anche a Sanremo, ovviamente, dove il Partito Comunista, spalleggiando Daria Fo e Franca Rame, si presenta davanti ai cancelli, perché diceva che questo festival lo accusavano di essere troppo borghese, troppo tradizionale, e che addormentasse di conseguenza le coscienze dei lavoratori. E quindi la polizia davanti ai cancelli, Marina. E come va a finire? E come va a finire? Sempre a tarallucci e vino, tipica storia italiana, perché in un momento gli organizzatori erano preoccupatissimi, poi volevano spostare addirittura, capito, la diretta, ma come c'è la Rai, ma come si può spostare nulla? Assolutamente no! Comunque, il festival si svolge regolarmente. Tranquilla. E vince questa canzone. Prendi questa mano. Bobby Solo con Zingara, cantata in coppia in quell'occasione del festival con Iva Zanicchi. Il 1969 è davvero un anno spaziale, è l'anno del primo uomo sulla Luna. Lui si chiama Neil Armstrong, ha 39 anni, e con lui ci sono Buzz Aldrin, Michael Collins, e il 16 luglio del 69 partono dalla Terra con l'Apollo 11 e il 21 luglio atterrano sulla Luna. Ovviamente è stato un evento mediatico senza precedenti, con ben 78 stazioni televisive collegate in 40 paesi del mondo, con la stazione NASA a Houston, in Texas. Questo sì che è uno show, ma quale Sanremo, tutto il mondo che sta guardando questa cosa meravigliosa. E per la Rai diventa la più grande sfida che abbia mai dovuto affrontare. Si tratta di 30 ore di diretta. 30 ore condotte da Tito Stagno nello studio 3 di via Teolada a Roma. Ha toccato il suono lunare. No, non ha toccato. Signori, sono le 22:17 in Italia, sono le 15:17 a Houston, sono le 14:17 a New York. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste. Questo è frutto dell'intelligenza, del lavoro, della preparazione scientifica, è frutto della fede dell'uomo. A voi Houston. Qui ci pare che manchino ancora 10 metri. Ah, Don Ruggero. Ecco, sto aspettando. Don Ruggero. Pronto? Sto aspettando. Se abbiamo ascoltato bene le comunicazioni fino adesso. Sto aspettando, no? Da 2,5 metri non si passa a 10. Fermate i motori, hanno detto da terra. Ha toccato in questo momento. In questo momento ha toccato. Hanno fermato i motori in questo momento. Io sentii in cuffia Richard Land. Richard Land vuol dire letteralmente ha toccato. E dissi subito, ha toccato, toccato il suolo lunare. Poi ci sono stati pochi secondi prima che le gambe del carrello della navicella lunare affondassero nel suolo lunare. Nel suolo. E fra l'altro lì intervenne Orlando e ci perdemmo, cosa buffa, l'annuncio storico di Armstrong. Certo. Eagle has landed, non l'abbiamo sentita. Comunque, grandissima attenzione. Pensa, si dice che hanno fumato 6.000 sigarette durante quando si poteva ancora fumare negli studi di Via Teulada. Comunque, il grande Totò già c'era andato sulla Luna 10 anni prima. La Luna? Sì. Ma guarda un po' alla mia età, andare a finire sulla Luna. Io di questa stagione sono abituato ad andare a Capri. Porca miseria. E lui andava a Capri, scusami. Giustamente. Beh, una bella avventura questa, sì. della Luna, veramente, guarda, risentirlo mi ha veramente commosso. Evento storico. Comunque, altra avventura, questa però è di Lucio Battisti. È arrivato Battisti! Sì, partecipa al Festival di Sanremo, arriva solo nono e quella è l'ultima volta che Lucio Battisti va a Sanremo. Non sarà! Battisti rinuncia a Sanremo, grande. Sì, se ne va, tutti dicevano, sai, ma come, una vetrina promozionale importante, tu non ci vai. Non ci va perché Battisti quell'anno vince il Cantagiro. Era già avanti, era diventato importante il Cantagiro, se non quanto Sanremo, forse ci si avvicinava già molto. Ecco, finisce trionfalmente questo Cantagiro e Lucio Battisti inizia una tournée, la sua unica tournée dal vivo, suona soltanto unica. In 20 concerti, si fa accompagnare dalla Formula 3, che era il suo gruppo, quello che lui poi ha firmato per la sua etichetta discografica, la numero 1, e c'era con lui Tony Cicco, membro fondatore della Formula 3, batterista e grande amico di Lucio Battisti. Beh, Tony Cicco c'era. Ci divertivamo come pazzi perché si viaggiava on the road, c'avevamo due duetto, io viaggiavo con lui, Alberto viaggiava con Gabriele, si arrivava, si provava ed era una festa. La festa più importante era prima dello spettacolo, che mangiavamo sempre perché lui diceva a pancia piena se canto sono meglio. E poi con i sistemi, con i mezzi tecnici che avevamo, mica avevamo un impianto megagalattico per esempio, oppure luci, laser, niente, era proprio, c'era l'essenza, c'era il divertimento e c'erano queste grandi canzoni di Lucio che era oro colato, per cui in un'ora e mezza di concerto ci divertivamo come pazzi. Sì, Tony, però l'immagine che ci è stata tramandata di Lucio Battisti è quella di un personaggio schivo, un po' Musoni, a volte insicuro, geloso della sua privacy, è vero? Lucio, quando stava con noi, cioè in privato, diciamo, era divertentissimo, proprio era un monellaccio, un barzellettaro, quindi chiaramente in pubblico invece era un po' così, era un po' scontroso perché non amava rilasciare interviste, farsi fotografare, non lo so, questa forse era già una scelta artistica che lui sentiva proprio il bisogno di essere così. Eppur mi sono scordato di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella, vero? Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Yeah, ma che disperazione! grazie a Tony Cicco per queste sue testimonianze dirette. Fantastica. Eppur mi son scordato di te, era la formula. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta. Mix 24. Storia e musica negli anni 60 e 70. Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto. Notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, Lucio Battisti, e prima mi ritorni in mente. E qui dallo studio di Roma di Radio 24 ci immaginiamo una spiaggia dove stiamo andando al mare. Ecco, Franco Schipani, ma qual è secondo te il brano di Sanremo del 1969 che poi meritava di più? Perché poi queste cose si scoprono dopo, sì, no? Sì, hai ragione. No, però diciamo che appena finito il Festival di Sanremo, già quell'anno, questa canzone è stata esclusa, cioè è stata presa un po' sotto gamba, anche se Stevie Wonder l'aveva cantata in italiano. Però la vera interprete era lei, Gabriella. Se tu, ragazzo mio, sei sempre triste e solo, la vita non aspetta, passa e se ne va. Se prendi la mia mano. Eh sì, Gabriella Ferri con Se tu, ragazzo mio. Grandissima, pezzo, Gabriella Ferri. Assolutamente, un pezzo sul quale sia la critica che il pubblico sono accordati e hanno decretato poi un grande successo. E poi sai, c'è stato anche il gossip in quel momento di un tale gossip. Renzo Arbore che era arrivato a Roma e si era infatuato da lei. Che ha raccontato, sì. Sì, l'ho raccontato. Uno dei miei grandi amori è stato Gabriella Ferri. Arbore con il quale tu hai collaborato per tanti anni. Sì, io ho cominciato a lavorare con Renzo nel 1979. Da New York facevo l'altra domenica insieme a Isabella Rossellini e producevo alcuni dei suoi, diciamo, collegamenti da lì. Comunque è un aneddoto proprio di Renzo che mi ricordo. Vi ricordate che parlavamo di Bandiera Gialla, questo programma radiofonico che andava in onda tutti i sabato pomeriggio e noi ragazzi, sì, con la radio andavamo lì nel ti parco, fermavi, tutti, ascoltavi. Asso, non si poteva mancare questo appuntamento. Un mio amico di liceo, tale Luigi Di Iorio, non lo dimenticherò mai, un giorno mi disse: ho i biglietti per andare ad assistere dal vivo a Bandiera Gialla. Tu capisci, noi avevamo vinto la lotteria. Ti sei fiondato. Fiondato, è stata la prima volta che sono entrato in questi meravigliosi studi della RAI ed è stata anche la prima volta che ho visto un gruppo di una certa importanza, non quelli che vedevamo nei localini qui di Roma, no? Chitarra, basso, batteria. Chi erano? Erano loro. Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo. Inverno non è. Che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più. Non so perché. I figli di Afrodite, di Aphrodite Child, visti dal vivo da me, ancora li ricordo, ma con tanto affetto. È stato un momento importante della mia vita, devo dire. Comunque, capitanati da questo Demis Rousseau, loro no, greci chiaramente, che aveva questa voce stupenda, questa canzone Lontano dagli occhi, che poi hanno cantato tutti, appunto, da Sergio Endrigo anche a Gianna Nannini. Però C'è un altro greco che in quel momento è al numero uno delle classifiche italiane di vendita. Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più. George Moustaki, Lo straniero, che bel pezzo poetico, Marina. Beh, comunque, passato il 68, che abbiamo raccontato ieri, non è che le proteste si fermano nel 1969, anzi, continuano, vanno avanti soprattutto gli operai, i sindacati che rivendicano più diritti e migliori condizioni di lavoro. Chissà se noi giovani partite IVA non dobbiamo guardare a quel 1969, così la butto lì, così. E tutto sfocia in quello che è conosciuto come l'autunno caldo del 1969. Matteo raggiungerà la sede della radio televisione italiana. Vogliamo che la radio televisione sia al servizio degli operai, dei contadini, degli studenti. E nell'autunno caldo di quel 1969 sono soprattutto gli operai delle grandi fabbriche a protestare, e la novità è che si alleano con gli studenti. A settembre la Fiat sospende gli operai accusati di aver sabotato la catena di montaggio, la Pirelli addirittura viene occupata e alla Marzotto alcuni dipendenti distruggono la statua del fondatore. Insomma, studenti e operai in quel 1969 paralizzano letteralmente tutto il paese. L'inflazione inizia ad aumentare e sarà il vero problema degli anni 70. E il vento dei cambiamenti di quegli anni investe anche la Chiesa, che fa una cosa importante. Il 30 novembre viene celebrata la prima messa in italiano. Sopra una nave abbandonata sono arrivato fino a te. Nella musica italiana, Franco Schipani, cos'altro fa notizia nel 1969? Ah, innanzitutto ti devo spiegare che cos'è un musicarello. Lo sai che cos'è un musicarello? Assolutamente no. Allora, un musicarello è un sottogenere cinematografico italiano. Il nome è stato coniato a Roma, dicono, che ha due caratteristiche principali. Allora, che cosa si fa? Si prende una canzone, un album, un titolo conosciuto, cioè un motivo, con un cantante famoso, ovviamente, e lo si mette lì da una parte. Dall'altra parte mettiamo degli attori anche importanti per quel periodo, gente che faceva anche teatro, insomma, di un certo rilievo. C'era Paolo Panelli, ma c'era anche Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Lina Volonghi, insomma moltissimi, che facevano la parte dei Matusa. Matusa era un gergo giovanile dell'epoca e significava anziano. Matusa viene da Matusalemme, il famoso patriarca. Che ruolo avevano? E si faceva questo film dove c'erano i giovani da una parte che bonariamente, diciamo, lottavano contro questi Matusa, questi loro amori, dove loro si inseguivano. Un po' come me e te. E come ci siamo arrivati finalmente nel 1969. Insomma, si faceva questo film divertente che poi la gente andava a vedere. Insomma, si vendeva il disco da una parte e dall'altra parte la gente andava ai botteghini a vedere i loro grandi artisti sul grande schermo. Insomma, promuovevano le canzoni con questi musicarelli. Assolutamente. E comunque, le prime vittime illustri di questo musicarello sono niente proprio di meno che Gianni Morandi e Laura Ifrichian, che hanno recitato insieme in due musicarelli. C'è un altro gossip quest'anno. Un altro gossip che riguarda Albano e Romina Power. Pensate, la figlia... Storione. La figlia di una delle star di Hollywood, di Linda Cristina, sposa un contadino, tale Albano Carrisi, si fidanzano. E Albano, appunto, ricordiamo che noi... era comunque già famoso all'epoca, quindi comunque non era proprio un agricoltore. Fu uno scoop, ma anche loro vittima di questi musicarelli? Anche loro, sentiamo un paio di brani anche da loro. Anche loro, come Gianni Morandi e Laura Ifrichian, che cosa fanno? Si sposano. Sposano. Convolano a giuste nozze. Ma lo fanno senza tanta pubblicità. Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Mix 24. Storia e musica negli anni 60 e 70. Bentrovati su Mix 24 Estate, sono Marina Milone e sono con Franco Schipani. Oggi si chiude il nostro racconto sugli anni 60, speriamo di avervi tenuto una buona compagnia. E nel 1969 succedeva una cosa importante in Italia. Posso dire di essere contraria al divorzio. Non più che altro perché una volta ammesso questo divorzio uno può prendere il matrimonio troppo alla leggera e quindi pensare sì, ci sposiamo, ma se poi non va bene c'è il divorzio e quindi si può risolvere in altro modo. E nel 1969 viene approvata la legge sul divorzio, è legale alla Camera, la legge viene approvata con 325 sì e 283 no. Oggi addirittura pelo, oggi addirittura siamo al divorzio breve. 14 morti e una ottantina di feriti per un attentato in una banca milanese. Altre esplosioni a Roma. C'erano ancora pezzi di corpi martoriati, c'erano tanti feriti, c'erano ancora delle fiammelle di fuoco. Era Fortunato Zinni, testimone di quella che è considerata la madre di tutte le stragi, e con questa hanno inizio purtroppo gli anni di piombo in Italia. A Milano, nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana, esplode una bomba, 17 morti, 89 feriti, e nello stesso giorno scoppiano 5 bombe tra Roma e Milano. È una storia magistralmente raccontata per La Storia Siamo Noi da Federico Lodoli. La cosa però che più colpisce è che il primo processo per la strage di Piazza Fontana dura 17 anni. Se ne apre poi un altro che dura fino al 2004 e non ci sono colpevoli, cioè la strage di Piazza Fontana resta un mistero. Il paese ha diritto di sapere che cosa è successo in quel periodo particolare della nostra storia, quali sono i rischi che il nostro paese ha corso, qual è il significato vero di quel muro umano che il 15 dicembre del 69 si eresse contro il tentativo di ricacciare indietro il paese. È uno dei misteri della storia del nostro paese. A Mosca il vice segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer fa un discorso storico e critica l'Unione Sovietica. È quasi un'eresia in quel momento e, se vogliamo usare un'espressione un po' più soft, è una storia d'amore che finisce. Questo brano l'ho scelto con molta ironia, Marina. Sì, siamo stati un po' così. Hai qualche dubbio? Vuoi che te lo traduco in italiano? Allora, la versione originale era quella di Chetem, di Jean Birkin e Serge Gainsbourg, e poi Giorgio Albertazzi addirittura con Anna Proclemere. Comunque, se venivi beccato in casa con una delle due versioni, non ha importanza se era in francese o in italiano, ti beccavi un sacco di schiaffoni. Ma non mi dirai quindi che l'Italia è diventata una specie di Sodoma e Gomorra? Ma quando mai, Marina? Ma figurati, nel nostro paese, che è un paese di romanticoni. C'è il Vaticano. Non gettare nel vento in un solo momento quel che esiste fra noi. Rose rosse per te, ho comprato stasera Massimo Ranieri e Non credere, Mina. Beh, aspetta un attimo, ti faccio sentire qualche altra cosa. Un'ora fa avevo lei che si specchiava dentro gli occhi miei. Un'ora fa l'avevo qui vicino a me e mi ha detto domani non so se io ci sarò. Aveva gli occhi dell'amore verdi come due lacrime. Hai capito che romanticoni? Un'ora fa Fausto Leali e gli occhi verdi dell'amore, i profeti. Nel nome di Dio il compassionevole, il misericordioso, o grande popolo libico, d'ora in avanti la Libia sarà considerata una libera repubblica sovrana. Porterà il nome di Repubblica Araba Libica. Ritiene di aver attuato le principali idee della rivoluzione per la quale si trova al potere. Devo dire subito che ci siamo impossessati del potere per realizzare appunto questo cambiamento storico. Non si tratta di un colpo di Stato, ma di una rivoluzione. Era il colonnello Muammar Gheddafi che con un colpo di Stato in quell'anno, nel 1969, prende il potere in Libia e scatta l'operazione Gerusalemme che pone fine alla monarchia. Gheddafi allora ha soltanto 27 anni, si sa soltanto che è nato da una famiglia poverissima. Una rivoluzione in Libia che fa riflettere su quello che sta succedendo oggi. A proposito di rivoluzione. Beh, a proposito di rivoluzione, nel 1969... arriva un festival e dopo questo festival la musica non sarà più la stessa. È Woodstock 1969 e il festival non è stato fatto a Woodstock. Ma va, beffa. Una beffa, Marina. È stato fatto da un'altra parte completamente. Dove? Un posto si chiama Monticello, nome italianissimo, perché dove c'era Woodstock, che è una comunità comunque artistica, prima ancora che si parlasse del festival, molti pittori, scultori, musicisti già abitavano a Woodstock da generazioni. Ecco, non c'era proprio la logistica per creare quel tipo di evento, anche perché si sono spostati, anche perché avevano bisogno di un palco incredibile, un palco dove è arrivato anche lui. Foxy Lady, Jimi Hendrix. Allora, sai che le case discografiche in questo festival non ci credevano? Ma va, Marina? Come al solito le case discografiche ci capiscono. No, ma in quel momento proprio hanno detto no, assolutamente sì, fate il vostro festival, i nostri cantanti vengono, suonano, fanno quello che vogliono, però non li registriamo. E molti infatti non l'hanno fatto. Fortunatamente in quel festival c'era Martin Scorsese. Ecco, sai perché ho nominato Martin Scorsese? Ecco, dimmi. Perché a parte le case discografiche c'era anche quella cinematografica. Allora immagina un festival con 20 telecamere, quindi 20 operatori, 20 eccetera, che arrivano completamente strafatti. Si perdono il sync, cioè c'erano i chuck ancora, quindi mettono la musica il da casino. Una parte. Sì, era veramente un delirio. Allora, finito il festival, prendono 51 chilometri di pellicola, li mettono in uno studio, mettono Martin Scorsese dentro e lui era addetto al montaggio. Ti ricordi sul festival vedevi sul grande schermo quelle 3-4 immagini simultanee? Sì, tutti dissero, picture in picture si hanno dice. Detto Madonna che genio questo montatore. Ma sì, era un genio, però non è stata una cosa artistica, era proprio una necessità. Riprendiamo dopo la viabilità. Mix 24. Storia e musica negli anni 60 e 70. Bentrovati su Mix 24 Estate. Quindi, Franco Schipani, un 1969 ricco di cose, fatti, avvenimenti, dimentichiamo qualcosa. Fie, festival, movimenti giovanili, di tutti i tipi di musica. Dimentichiamo qualcosa o qualcuno? I Beatles e i Rolling Stone vanno a Woodstock? Assolutamente no, non ci pensano neanche ad andare a Woodstock, anche perché i Beatles erano addirittura d'arrivo. Invece i Rolling Stones avevano così scelto di fare un altro tipo di lavoro. Ormai, sai, loro non erano bisogno di Woodstock per fare 500.000 persone, li facevano tranquillamente da soli. E i Beatles invece si stanno per separare. Si stanno per separare, però non è che si stanno per separare e non compongono più canzoni. Guardate un po' in quell'anno che tipo di canzoni, che canzoni facevano i Beatles. Come together. Together, the Beatles and Get Back. Ecco, tu beh, dicevi non sono male. Non sono andati a Woodstock, però sono andati sul terrazzo degli studi di Abbey Road e hanno fatto un concerto dal vivo, così la gente pensa, passeggiava lì sotto e diceva, ma da dove arriva questo suono? Quindi immagina la polizia subito che arriva, il traffico, le macchine, eccetera. Insomma. E le ascoltavano, però è l'ultimo anno. È l'ultimo anno dei Beatles, sì, assolutamente. Anche perché poi, sai, in quel momento discograficamente parlando c'era Yoko Ono che insieme a John Lennon che cominciano così a fare delle canzoni. Hai sentito? Yoko Ono e John Lennon. Yoko Ono e John Lennon. Poi guarda questa storia di loro sul terrazzo così. E si sposano poi quell'anno. Assolutamente. Secondo me hanno visto i Musicarelli, hanno visto Gianni Morandi e Albano e Romina Power. Hanno detto ma sì, ma sposiamoci pure noi, Yoko. Comunque poi questa storia del concerto sul terrazzo l'hanno poco copiata tutti, anche ovviamente. Gli YouTube. Sì, ha funzionato e quindi l'hanno un po' rifatta un po' tutti. E ecco. I Rolling Stones? I Rolling Stones. Honky Tonk Woman, The Rolling Stones. Senti, quasi non sembrano loro. Ma guarda, hanno trovato il loro sound. Hanno trovato il loro sound, però hanno perso un Brian Jones, che era il membro fondatore insieme a Keith Richard e Mick Jagger e Charlie Watts e Billy Wyman. Muore in circostanze sospette, perché muore nella sua piscina mentre era un po', aveva bevuto, insomma, sono stati scritti e fatti documentari sulla morte e film di Brian Jones. Forse non lo sapremo mai la verità. Però era l'anima del gruppo. Era l'anima del gruppo, perché poi vedi, i Rolling Stones hanno trovato il loro sound, che è questo. Però lui era un musicista che amava sperimentare, quindi uno che metteva nelle canzoni, non so, cori di bambini, organi da chiesa, metteva ai corni inglesi, cioè era uno veramente voleva sperimentare con la musica. Anche i Beatles in quel periodo, se tu pensi a quello che hanno fatto con Magical Mystery Tour o Sgt. Pepper, erano ormai in quella direzione prima di sciogliersi. Quindi vabbè, comunque i Rolling Stones, come stavamo dicendo prima, sono riusciti a trascinare 500.000 persone nel concerto gratuito ad Hyde Park proprio in memoria di Brian Jones quell'anno, nel 1969. È l'anno del film Easy Rider, che è diretto e interpretato da Dennis Hopper con Peter Fonda e Jack Nicholson. Giovanissimo Jack Nicholson, che è stato un forse, cult, un manifesto, sì, di sì, quell'anno. Sì, assolutamente. Guarda che noi ragazzi, che avevamo questi cinquantini eccetera, dopo aver visto quel film abbiamo cominciato a modificarli, mettendo dietro le spalliere, aggiungendo quello che si poteva aggiungere per farle più... Queste motociclette che andavano, attraversavano l'America, no? Attraversavano, racconta questo quel film. Sì. E facevano vedere un'America che non aveva fatto vedere nessuno fino a quel momento, perché loro in motocicletta hanno fatto hanno percorso quella che chiamano in America the Sunshine Belt, no? Gli stati del sud. Da Los Angeles alla Louisiana andavano. Sì, però passando per quegli stati dove, sai, quando arrivava un capellone in una caffetteria, c'erano le ragazze, oddio, sono arrivati i capelloni, guarda che bello con le moto fuori. Però c'erano anche quelle che dicevano, ehi ragazzi, avete i capelli lunghi, siete dei ragazzi o delle ragazze? Cioè, l'altra America, diciamo. L'altra America, che era quella maggioranza, comunque. Born to be wild, Steppenwolf. Sono nato per essere selvaggio. Senti, non ti viene voglia di andare in motocicletta quando senti un brano? Comunque di guidare? Comunque il 2 ottobre del 1969 nasce in Giappone l'uomo tigre. Questa tu non la volevi mettere, ma io ci tengo perché è stato un cult della mia generazione. In regia mi fanno segno di sì, che ho ragione. L'uomo tigre. Nell'anno di Woodstock, comunque, non oso chiederti cosa sia successo sulle nostre spiagge. Da Woodstock andiamo a... Lisa dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non sei più. Solo non vivrei senza di lei. Lisa dagli occhi blu, Mario Tessuto, Sole di Franco IV e Franco I e le Hawaii di Herbert Pagani. Sì, Marina, siamo tornati sulla terra. Okay, dopo, infatti dalla regione dicono, ma come, dopo Woodstock mi fai questo messaggio con Lisa dagli occhi blu? Ragazzi, era quello che sì, era quello. In Italia quello. In quel periodo si suonava quello, l'estate. Allora, abbassiamo la temperatura. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa. Che freddo fa, scende la pioggia, ma che fa, crolla il mondo addosso a me, per amore sto. Scende la pioggia di Gianni Morandi, magari col caldo che fa fuori, e ma che freddo fa, brrr, nada, nada. Come chiudiamo? Chiudiamo con gli anni 60, ma inizieremo con gli anni 70, vero Giovanni? Sì, Franco, in attesa di ripartire lunedì 28 settembre con la formazione classica di Mix 24, con Mario Secchi, Pietrangelo Buttafuoco e tante novità, da lunedì inizia il nostro racconto degli anni 70, sempre un viaggio tra musica e storia, sempre con Franco Schipani per la musica e una nuova voce che ci accompagna per la storia, quella di Alessandra Fiori. E anche la vostra, raccontateci i vostri anni 70, cosa facevate, dove eravate, che musica ascoltavate. Scriveteci un SMS al 349-238-6666 e raccontateci i vostri anni 70. A lunedì, con gli anni 70.